La versione di Oscar Giannino. Allora, cari ascoltatori, forse qualcuno di voi è rimasto un po' sorpreso perché alla sigla, all'apertura della nostra trasmissione è cambiata la musica, ma è solo per oggi, e ve lo dico per chi non l'avesse riconosciuto, per chi magari non ha la mia età, per chi è più giovane e così via. Era un brano che ci introduce immediatamente nel tema della trasmissione, perché era una canzone di Edoardo Bennato del 1989 e probabilmente qualcuno l'ha riconosciuta, tra l'altro una delle due dedicate a Bagnoli da Edoardo Bennato nella sua lunga carriera di musicista. Era appunto Vendo Bagnoli, ed era una canzone nella quale nel 1989 Edoardo Bennato, il cui padre lavorava all'Itarsider di Bagnoli a Napoli, già esprimeva la bellezza di 27 anni fa, tutta l'amarezza, il disincanto, la disillusione dei napoletani di fronte all'idea che un giorno o l'altro davvero si ponesse mano in via risolutiva alla bonifica dell'enorme area, sono 230 ettari dell'ex enorme centro siderurgico pubblico, ex Ilva, che a Napoli sorse nel 1905 e che continuò a espandersi poi nel secondo dopoguerra. E quindi parliamo di Bagnoli di Napoli, ed è in particolare agli ascoltatori napoletani, non solo a loro, ma in particolare a loro che mi rivolgo per intervenire in diretta all'800 24 00 24, e per darci opinioni al 349 23 866, perché la domanda è molto semplice. Io vorrei capire da voi, ora vi presenterò l'ospite con cui approfondiremo questo tema, ma vorrei capire da voi, e quindi vi chiedo di telefonarci per dare la vostra opinione su quello che è successo ieri a Napoli. Che cosa è successo? Da una parte il presidente del Consiglio Matteo Renzi si presenta in città per la prima riunione della cabina di regia del nuovo progetto per il risanamento, la bonifica e il risanamento di Bagnoli, con quasi 280 milioni di soldi stanziati dal governo per la sua realizzazione, e dall'altra parte il Consiglio Comunale, no, la Giunta, anzi la Giunta e il Sindaco di Napoli, la Giunta De Magistris, già da mesi impegnati in una battaglia frontale contro il proposito del governo, disertano, e questo era già stato annunciato dal Sindaco Luigi De Magistris, la cabina di regia, perché considerano il progetto del governo un esproprio indebito ai danni di Napoli effettuato dal governo nazionale, la considerano anche illegale proprio dal punto di vista del riferimento normativo in base a cui si è giunti a questo sblocco nazionale dello stallo assoluto cui era il progetto di risanamento di Bagnoli. E io ricordo a tutti che la giunta napoletana ha impugnato i presupposti normativi, cioè l'articolo 33 del decreto sblocca Italia, che nel 2014 vide il governo porre le basi di questo nuovo intervento nazionale, però il giudice amministrativo ha dato torto all'impugnativa del Comune di Napoli. La domanda che io vi faccio è: non credete invece che questa sia l'occasione buona in cui credere e a cui cooperare all'interno della cabina di regia, come è giusto, anche obiettando a tutti gli aspetti non convincenti del progetto governativo che è stato elaborato da Invitalia e dal commissario ad hoc nei mesi alle nostre spalle? Però confrontandosi su questo nella conferenza di servizio che si apre il 14 aprile, che entro il 14 maggio ha un mese esattamente per ascoltare tutte le voci delle autonomie implicate nel progetto, quindi a cominciare dal Comune di Napoli e poi dalla Regione Campania, per poi procedere però con risorse stanziate, cioè certe, e in tempi che vengono definiti con il nuovo codice dei contratti pubblici e degli appalti ragionevolmente certi, in maniera tale da realizzare il progetto entro il 2019, quando Napoli ospiterà le Universiadi. Qui ci sono molte domande sottintese a questa all'atteggiamento da assumere verso la decisione del governo e questo progetto. Cioè, le domande sono: è un esproprio contro Napoli? Ci sono alternative realistiche a questo intervento? Riguarda solo Napoli o è a livello nazionale? Ecco, io devo dirvi che, ma sarò brevissimo perché poi quello che conta di più è l'ospite che abbiamo scelto oggi per sentire la sua opinione. Io fatico molto a considerarlo un esproprio. Io ricordo a chi ci ascolta, a chi di Napoli si è interessato di questa questione e la vive sulla propria pelle, lo sa benissimo. Il centro siderurgico pubblico iniziò ad entrare in crisi alla fine degli anni 60 addirittura. Nel piano regolatore approvato dal Comune di Napoli nel 1970, 72, quindi stiamo parlando di 44 anni fa, la prima norma del Comune di Napoli per la deindustrializzazione e la bonifica dell'area, e quella norma in realtà divenne una nota variante al piano regolatore, che venne approvata dal Comune di Napoli solo nel 96, cioè 24 anni dopo, quando nasce la società Bagnoli Spa, su cui si incardina il tentativo, tutto nelle mani del Comune di Napoli, per il risanamento e la riqualificazione urbanistica, la progettazione di una città della scienza, di un porto turistico, oltre al risanamento naturalmente della enorme, terrificante colmata di cemento che è rimasta dai tempi degli Alti Forni sul lungomare di Bagnoli. E però la società Bagnoli Spa alla fine è dichiarata fallita dal tribunale del 2014, dopo aver speso miliardi di lire, quindi centinaia di milioni di euro in realtà, per retribuire chi ci ha lavorato, ma alla fine senza finanziamenti il suo tentativo non va da nessuna parte. Quindi sono 44 anni di tentativi falliti alle spalle. Allora, ripeto, senza vedere i progetti, visto che siamo in radio, è un po' difficile spiegare quanto complessa e secondo me anche molto, un po' troppo ambizioso sia il progetto che sta alla base adesso dell'intervento del governo. Ripeto, rilanciare la città della scienza, tutti ricordate l'incendio che ci fu anni fa, un polo tecnologico dell'ambiente, il porto turistico, lo stadio della vela e così via. Però, detto tutto questo, la domanda di fondo è giusto protestare e dire non ci crediamo perché dopo tanti fallimenti non ce n'è bisogno di un altro? E qual è l'alternativa? Far rimanere tutto così com'è? Oppure non è meglio confrontarsi e tentare di cambiare ciò che non convince, ma andare avanti su questa strada, che secondo me è una coraggiosa, perché io che pure critico tanto il governo Renzi, fare di Bagnoli e di quei 230 ettari il primo banco di prova, che non è nazionale, è europeo, di riqualificazione urbana di una grande città, è una bella sfida, mi piace, devo dirvi la verità, anche perché se si comincia così forse abbiamo anche qualche speranza di farlo per l'altro gigantesco problema di risanamento ambientale di un'area industriale, che è quello dell'Ilva Taranto, non dimentichiamolo mai, che aspetta di essere risolto dallo Stato, visto che l'abbiamo ripubblicizzato per via giudiziale. Allora, questa è il mio le basi del problema. Io sono curioso di sapere come la pensate voi, ma abbiamo un ospite, perché io ho chiesto l'intervento non a un politico della città o a un urbanista, ma a un intellettuale che a me ha molto colpito in questi anni. È uno scrittore di polizieschi, e faceva altro nella vita, lavorava in banca, poi ha partecipato a un concorso, della verità lo hanno iscritto i suoi colleghi del tempo, l'ha vinto, ha scoperto quello che già sapeva di avere, una grandissima, talentuosa vena di narratore poliziesco, e ha iniziato queste tre serie che si vendono benissimo nel nostro paese, hanno già costituito la base anche di trasposizioni televisive, ma si traducono in un mucchio di paesi all'estero, e sono tre serie. Lui è puntuale, precisissimo, ha una pubblicazione di titoli ogni anno precisa come un orologio svizzero. C'è una prima serie che riguarda il commissario Ricciardi, una seconda serie che riguarda il commissario Lo Iacono, una terza serie che riguarda i bastardi di Pizzo Falcone, e sono tutte ambientate a Napoli. Quindi è uno scrittore che ama tantissimo la sua città, ed è a lui che ho voluto chiedere come ha vissuto la giornata di ieri e tutta questa lunghissima storia che già 27 anni fa faceva scrivere le amare parole che abbiamo sentito. Edoardo Bennato: si vende Bagnoli, fate un affare per chi ci crede. Allora, è con noi Maurizio De Giovanni, grazie e buon pomeriggio di aver accolto. Buon pomeriggio a lei, grazie per tutti questi impropri complimenti. No, no, per che, l'attività che, della mia persona. Che impropri complimenti? Io complimenti sono... per la scelta musicale e complimenti per aver scelto un autore di polizieschi alla ricerca certo, di un assassino, in questo caso esatto, così intricato. Mi sa che gli assassini sono tantissimi e gli aspiranti assassini ancora di più. Bagnoli è una ferita non napoletana, non campana, ma una ferita italiana. Esatto. Per molti versi, come diceva molto giustamente lei, è emblematica del tentativo di dare di attaccare una vocazione industriale posticcia a un'area che tutte le vocazioni ha, tranne quella industriale. Peraltro io inviterei gli ascoltatori e chiunque a passare per Bagnoli e affacciarsi sull'area di Bagnoli da Posillipo, vedrebbero, si renderebbero conto immediatamente di quanto assurda sia l'idea di impiantare un mostro industriale lì, in uno dei luoghi credo più belli, e penso di poterlo dire senza tema di smentita, più belli che offra il litorale tirrenico, insomma, in assoluto. Sicuramente la giornata di ieri è stata una giornata inquietante per molti versi. Bagnoli è diventato un campo di battaglia istituzionale. Ci sono molte questioni di merito, ci sono molte questioni di principio che corrono il rischio. Non parlo di esproprio, perché secondo me non si tratta di esproprio, ma è anche vero che esiste una geografia delle competenze istituzionali. Se poi il Presidente del Consiglio fa il Sindaco d'Italia è un altro discorso, ci può stare, è una cosa anche che può avere anche un senso, però bisognerebbe, questo sì, deciderlo in sede di riforme della Costituzione. La Costituzione prevede un comune, questo comune è attivo ed è un comune. Io ci tengo a dire una cosa subito, che secondo me non è marginale: in un paese in cui sono tantissime le indagini della magistratura a valere sulle giunte, sui comuni, eccetera, eccetera, sul comune di Napoli in questo momento non esistono indagini in corso, non esistono avvisi di garanzia, non esiste niente. Quindi il comune di Napoli è perfettamente operativo. In questo senso è, a mio modo di vedere, sufficientemente grave che si agisca e si operi su un'area così fondamentale e così importante per l'economia prospettica della regione intera, una regione che ha il 10% degli abitanti del paese, ricordo, perché certo, la Campania ha 6 milioni e mezzo di abitanti e non ha un'azienda quotata in borsa. Cioè, questa è una cosa che io credo sia notevole, no? Cioè, la nostra è una città che ha soltanto nell'accoglienza, quindi nel turismo, nell'agroalimentare, le risorse e nella bellezza artistica, archeologica, culturale, che sono tantissime, una risorsa economica per la crescita. La cabina di regia ieri ha avuto luogo contestualmente a delle manifestazioni. Queste manifestazioni hanno avuto anche dei risvolti violenti, sì, assolutamente condannabili, gravissimi. Questi risvolti violenti sono peraltro esterni da quella che era la protesta messa in campo dalla giunta, oppure quella in cui ha partecipato parte della giunta comunale. Esponenti del PD nazionale e del governo hanno rilevato che due assessori erano in piazza, per così dire, invece che alla cabina di regia. Naturalmente va detto che non è che fossero lì naturalmente a fare gli scontri di piazza con la polizia. Esatto. Nella piazza, in un'altra piazza, ecco, rispetto a quella dei disordini, invece relativa alla protesta dei centri sociali, la cui legittimità va poi analizzata in altre sedi, credo. Quello che è grave è che noi, la città, abbiamo eletto un sindaco. Questo sindaco, in un momento così fondamentale come la cabina di regia di ieri, non c'era. Non c'era perché ha spiegato molte volte le sue ragioni, ci sono delle zone d'ombra, ci sono dei soggetti seduti in questa cabina di regia, soggetti che parteciperanno al risanamento di Bagnoli, che hanno contribuito pesantemente alla rovina di quell'area. Il riferimento delle società, diciamo, a partecipazione, a controllo pubblico, a partecipazione pubblica, ma che hanno operato in maniera difforme da quello che era l'interesse dell'area in passato, è chiaro e diretto. Il che non significa che, secondo me, ma è la mia opinione personale, il comune doveva esserci ieri in cabina di regia. Anche secondo me. Quindi lei è d'accordo su questo? Combattere lì, combattere a viso aperto, come bisogna sono dire. Sono d'accordissimo, doveva esserci, ma ancora di più io avrei voluto che la riunione della cabina di regia fosse pubblica. Esatto. Cioè, fosse trasmessa in streaming, certo, fosse resa pubblica, perché è stato rifiutato. Mm. È stato chiesto a gran voce dal sindaco, io c'ero personalmente presente, era una trasmissione televisiva e quel sindaco chiese questa cosa a gran voce. Francamente questo mi sarebbe molto piaciuto. Cioè, se la città avesse potuto essere mediaticamente testimone del dialogo di cabina di regia, credo che sarebbe stato un vantaggio per tutti. Certo. Questo non è stato fatto. La cabina di regia viene è praticamente un'emanazione diretta del Presidente del Consiglio. Io la regione c'è, però De Luca c'è. Sì, la regione c'è. Io vorrei tanto che invece del Sindaco d'Italia ci fosse il Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio è venuto a Napoli nell'ultimo anno e mezzo due volte. Ieri è stata la terza. Parliamo della terza città d'Italia, un'ora di distanza da Roma. Credo che se tanto a cuore sta Napoli e Bagnoli al Presidente del Consiglio, sarebbe bello se questo stare a cuore fosse dimostrato da presenze più dirette, più costanti. Abbiamo tanti problemi, ci sono problematiche di ordine pubblico, come le sa, di sicurezza. Di trasporti, visto che la società pubblica che gestisce le ferrovie napoletane, la Circum, eccetera, eccetera, sta nei guai fino al collo e così via. Cioè, Napoli non ci sono anche altre problematiche serissime. Noi abbiamo un problema di carenza di forze, di sostanze e di apporti e di tecnologia della polizia, che opera meravigliosamente in condizioni di difficoltà estreme. Non ci sono soldi per la benzina delle volanti, non pagano gli straordinari, sono pochissimi, e viene mandato l'esercito senza una funzione di polizia. Sì, questo esercito presidia agli angoli delle strade in maniera assolutamente, cioè se a 30 metri dal soldato avviene uno scippo, il soldato non può intervenire. Questo sono perfettamente d'accordo con lei, tante volte l'abbiamo detto, però sa come i politici poi alla fine vogliono mostrare alla gente, però è un dispendio aggiuntivo di risorse, mentre invece non le hanno chi le deve avere, che ha poi la facoltà e i poteri di polizia e polizia giudiziaria. Allora, abbiamo un minuto adesso di informazione stradale, poi torniamo con le vostre telefonate e con Maurizio De Giovanni, che come vedete è tutt'altro che un intellettuale chiuso nella sua torre Burnia, cioè le idee belle, concrete, per una volta forse è meglio sentire appunto gente così piuttosto dei politici che si accapigliano, come è legittimo, però insomma qui è una scelta su cui si gioca per anni il destino di Napoli ed è un banco di prova nazionale dell'Italia di fronte al mondo. Io questo lo sottolineo. Torniamo tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta, 16:49 primi, 26 secondi, siamo con Maurizio De Giovanni, talentuoso scrittore di polizieschi, napoletanissimo, sono tutti ambientati a Napoli. Adesso io non voglio fare propaganda ai suoi libri, però leggeteli davvero perché ne vale la pena, perché si prendono e si divorano dall'inizio alla fine, queste tre serie diverse di cui è autore. Però stiamo parlando del risanamento di Bagnoli, di quello che è accaduto ieri a Napoli, di questo scontro frontale tra l'amministrazione De Magistris, che accusa in buona sostanza il progetto governativo di risanamento che è partito ieri con la cabina di regia che da metà aprile a metà maggio sarà aperta per confrontarsi con le opinioni, i dissensi, le obiezioni, le richieste delle autonomie. Il Comune di Napoli però non ci sarà, poi parte il progetto che entro il 2019 dovrebbe realizzare quello che in 44 anni tante volte si è provato a Napoli ma non è mai riuscito. Avete sentito che però il nostro Maurizio De Giovanni dice: sì, io ci sarei andato, però non dimentichiamoci che questa amministrazione De Magistris non ha problemi giudiziari, uno, due, non è in definitiva poi responsabile neanche del passato. Sentiamo alcuni di voi come la pensano, cominciando da Gennaro, da Napoli. Gennaro, prego. Ehi, pronto? Dica. Allora, io sono completamente d'accordo con De Giovanni e penso che questo atteggiamento di scontro frontale di De Magistris non ha nessun senso. Cioè, lei ci sarebbe andato, lei c'ha la radio accesa, però se ce l'ha lì vicino la deve spegnere perché sennò sentiamo il... Io penso che i napoletani, come tutti i cittadini italiani, sono più avanti della classe politica. Perché ritengo che assolutamente De Magistris doveva sedere al tavolo della cabina di regia per far emergere se mai ci fossero delle iniziative nel progetto del governo antiterica agli interessi di Napoli. I napoletani vedono solo uno scontro ma non capiscono poi i motivi veri di questo scontro. E che cosa ne deriverà? Questa è l'opinione di Gennaro. Sentiamo Massimo, sempre da Napoli. Massimo, prego. Buonasera, grazie. Buonasera. Sono in galleria se cade la linea, ma brevemente, se mi lascia parlare senza sovrapporre, vorrei chiedere due cose. In primo luogo, dimentichiamo che nel 1906 il allora ministro presidente del Consiglio, Saverio, dovette imporre i tassi da Napoli per industrializzare la città, in quanto la città era completamente povera, non aveva industrie. Mi sentite? Sì, vada. Lo stesso si sta facendo adesso, cioè la domanda era questa, io non ho simpatia per il Presidente del Consiglio e l'attuale governo, però come mai dopo 26 anni dall'ultimo alto forno chiuso nel novembre del 90, con i soldi e le erogazioni miliardi e miliardi che sono giunti in città, lo scrittore, mi perdoni, come si chiama? Non ricordo il nome. Maurizio De Giovanni. De Giovanni, che è sempre presente alla trasmissione settimanale in un'emittente locale dove si intervista sempre l'onnipresente sindaco di Napoli, che se due anni... Però la domanda? La domanda è, come mai non si domanda mai, al di là delle responsabilità, dove sono finiti tutti questi fondi erogati, prima ancora di ultimi questi 270 milioni? E come mai nessuno mai, oltre che Bagnoli Futuro, che dare posti a finti posti che non servivano a nulla, come mai è dovuto intervenire il governo centrale? Forse la città è impantanata tra discussioni sterili, tra i vari interessi economici. Domanda chiara, adesso la giriamo a Maurizio, sentiamo ancora rapidissimamente Alessandro da Genova. Prego Alessandro, rapido. Allora, io volevo dire semplicemente di guardare bonifica campi, dal 93 al 94 a oggi Genova ha perso 150.000 abitanti, quindi vuol dire che hanno avuto un'ottima programmazione, il governo, le varie amministrazioni, adesso non voglio... Però voglio, se lei ha tempo, vado a vedere Bonifica Campi, cosa ha ragione. È successo, il disastro totale allora, della città. Allora, Alessandro, avendo l'esperienza di Genova, in cui la deindustrializzazione e riqualificazione, diciamolo fuori dai denti, ha fallito, perché altro che riqualificare la zona, l'abbiamo persa semplicemente, ci indica gli errori, e ce ne sono stati di pesanti e gravissimi in Italia nei decenni alle nostre spalle, esattamente a tenere presente per evitarli a Napoli. Questo è il punto. Ha sentito Maurizio De Giovanni la domanda esplicita a lei che faceva il nostro secondo ascoltatore? Certo. Dunque, allora io ovviamente non mi onoro di non far parte di alcuna parrocchia, esatto. E quindi sono felicissimo di poter prendere le distanze, di poter dare il mio giudizio sulle singole iniziative. Il passato di questa città è oggetto di analisi storica e anche di pesanti inchieste della magistratura, con attribuzioni di responsabilità, e sono convinto, io sono uno di quelli che è molto contento quando scoppia uno scandalo e quando c'è un'indagine, perché vuol dire che le cose vengono fuori. Sono più preoccupato quando invece va tutto sotto silenzio e sembra che tutto vada bene, quando è sotto gli occhi di tutti che tutto bene non va. Napoli ha avuto decenni di amministrazioni coerenti a se stesse, va? Quella successiva era molto simile alla precedente. Quello che è stata la dispersione di fondi pubblici, la gravissima, le appropriazioni indebite, gli storni, i momenti di concussione, di corruzione che sono avvenuti, sono stati oggetto di indagini della magistratura. Questo non vuol dire che le competenze istituzionali adesso vanno rotte e superate. Certo. Questo non vuol dire che oggi come oggi ci siano degli organismi che debbano amministrare il territorio, che siano eletti democraticamente. L'obiezione del governo è: però voi i soldi non ce l'avete a Napoli. Allora, ci sono dei fondi europei forti che hanno un senso, peraltro, e che vengono amministrati in maniera molto diversa dal passato, che vengono erogati in maniera molto diversa dal passato. I tempi, per fortuna, sono cambiati, almeno in questo, e c'è un maggior controllo su quelli che sono i flussi. La politica non è più, e questo è uno dei pochi benefici che deriva dal Bailam di cui siamo testimoni attualmente, no? La politica non ha più una posizione per la quale si sente garantita di indiscussa discrezionalità, chiamiamola così, e di certezza dell'impunità. Allora, io intanto ringrazio Maurizio De Giovanni, spero di avervi offerto insieme, grazie a lui, devo dire, lo ringrazio moltissimo, osservazione al di fuori della politica, però cari ascoltatori, questa è una battaglia fondamentale, nazionale, per Bagnoli, che Dio ci aiuti davvero a non commettere errori.